le stelle, ecco spazio avrà belli. Norte, sud, norte, sud, combacerà, l'orte scende sulla stratosfera. Salve, bianca rozza, senza miti, pozzi di antagioni di gomma miniere, gomma della bianca e via razza. Oh, poggiano le falci poggiano in giù in su Cifre te.